Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. È ben noto lo scarso entusiasmo, per usare un eufemismo, con cui la maggior parte delle comunità locali accoglie la notizia di un nuovo inceneritore o termovalorizzatore, che dir si voglia. L'opposizione a questi impianti è spesso feroce, anche al di là del merito, visto che insomma impianti di questo tipo esistono in tutta Europa, spesso dislocati nel cuore delle città, e grandi insomma evidenze di effetti preoccupanti sulla salute oggettivamente al momento non ce ne sono. Sta di fatto che esiste almeno un'alternativa alla combustione per il trattamento dei rifiuti, e naturalmente non parliamo della discarica. Questa alternativa è nota da un secolo e mezzo e tuttavia poco utilizzata. Anzi, per la precisione, le alternative sono almeno due e vanno sotto il nome di pirolisi e gassificazione. Ne parliamo con Alessandro Curti, che è amministratore delegato, ma è anche insomma un ingegnere, della Curti Energia, azienda che opera su vari settori e che sta lavorando su alcune tecnologie innovative proprio nel campo della pirolisi. Buonasera Curti. Buonasera a lei e buonasera a tutti. Allora, intanto ci spieghi che cos'è questa benedetta pirolisi. Cosa cambia tra fare la pirolisi e bruciare qualcosa? La pirolisi, come lei diceva, è una trasformazione nota già da più di 100 anni, che consente di trasformare appunto delle sostanze, dei materiali, attraverso un procedimento senza la reazione con l'ossigeno. Questo vuol dire che non ci sono sostanze, nel caso specifico, che possono dare problemi, sostanze che tipicamente si formano bruciando i solidi, perché la reazione chimica avviene in un ambiente inerte. Quindi privo di ossigeno. Diciamo che la combustione normale brucia, diciamo, la sostanza solida e si ha delle emissioni di fumi e restano delle ceneri. Invece un processo di pirolisi è diverso: non c'è l'ossigeno, si usa il calore e in pratica si scompone, no, il materiale solido. E che cosa diventa? Diventa ciò che era prima di essere messo insieme. Cerco di spiegarmi meglio. Una frazione solida, una frazione liquida e una frazione gassosa. Ovviamente funzione di quello che è il processo originario, certo, quello che mi ha portato all'oggetto che io ritrasformo. Dipende. Quindi cosa ci butto dentro, ovviamente, e anche il processo che uso, se è più veloce, meno veloce, con temperature più o meno alte, ottengo frazioni diverse di solido, di liquido e di gas, giusto? Perfetto, temperatura e anche pressione. Ok, d'accordo. E la cosa interessante è che questi materiali che vengono fuori non sono degli scarti, ma sono delle materie prime. Voi, per esempio, avete messo a punto un processo dedicato agli pneumatici di pirolisi. Che cosa ci tirate fuori? Allora, noi riusciamo a tirar fuori 10% in peso circa, che è l'acciaio che forma le carcasse del pneumatico e che può essere facilmente riutilizzato nelle acciaierie. Poi tiriamo fuori un 30% di carbone amorfo, comunque con un contenuto di zolfo che è inferiore al 3%, un altro 30% invece è olio combustibile simile al BTZ, con un contenuto di zolfo molto ridotto, molto basso, all'1% di zolfo, più un 30% di syngas, che è un gas simile al gas metano, che nel caso specifico del nostro impianto viene utilizzato nello stesso processo per portare appunto il calore che serve alla trasformazione stessa. Quindi c'è questa autoproduzione di energia che evita l'uso di altri combustibili provenienti da fonti esterne o da energia elettrica pregiata. Ecco, forse riassumendo in modo un po' estremo, possiamo dire che rispetto alla combustione, la pirolisi è una combustione, diciamo, meno ignorante, non brucia tutto quello che gli capita sotto, che produce meno emissioni inquinanti, perché appunto non si bruciano dei solidi, ma alla fine la parte che si brucia, nel vostro caso per esempio, è la parte gassosa, e la possibilità di ricavare delle materie prime e seconde dal rifiuto. Allora le chiedo, insomma, vista così, insomma, sembra l'uovo di Colombo, perché è così poco applicata questa soluzione a livello pratico industriale? Sostanzialmente perché questi impianti hanno un costo di costruzione e però purtroppo non si tiene conto di quelli che sono i vantaggi che questi impianti danno. Si tende troppo spesso a confonderli con quelli che sono gli inceneritori, e in realtà questo non è. Inoltre, per quanto riguarda queste materie prime secondarie che si ottengono dalla trasformazione, mancano gli standard europei. L'Europa comunque solo adesso comincia a definirli, ma obiettivamente è difficile poterli commercializzare. Proprio perché mancano delle regole certe. Grazie, grazie Curti. Grazie a voi. Ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a domani sera.